America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, Bernie Sanders ha vinto la West Virginia con il 51,3% dei voti contro il 36,3% di Hillary Clinton. Una vittoria schiacciante per Sanders, che non cambia nulla però dal punto di vista della maggioranza dei delegati. Hillary resta assolutamente favorita per la nomination, come ormai favorito per la nomination è Donald Trump. Dunque, vi avevo già detto che le primarie a questo punto contano poco, i due candidati finali sono Hillary e Donald, perciò oggi vorrei parlarvi d'altro. Donald Trump on his unification efforts with the GOP, he is meeting Thursday morning. Ecco, avete sentito, non si parla d'altro se non dell'incontro, scontro potremmo dire, tra Paul Ryan e Donald Trump, un incontro che avverrà domani a Washington e si dovrà capire se l'unità del partito è ancora possibile. Questo in vista di che cosa? Beh, della convention di Cleveland e naturalmente dello scontro finale contro i democratici, soprattutto contro Hillary Clinton a novembre. Ecco, questo incontro di domani, che dovrebbe far capire se è possibile recuperare l'unità del partito, è in realtà un incontro difficile. È come dire, secondo me non è diverso da una partita a poker in un saloon da vecchio West. Perché? Beh, perché ciascuno dei due contendenti resta fermo sulla sua posizione. E attenzione, perché poi ciascuno dei due sa di avere una forte debolezza di fondo, perché Trump ha un bisogno disperato della macchina del Partito Repubblicano per raccogliere i fondi necessari alla corsa elettorale finale contro Hillary Clinton. Ryan, che è il presidente della Camera, attenzione, come dire, è il massimo rappresentante dell'establishment, beh, non può correre il rischio di presiedere, come minaccia Trump, a una spaccatura del partito in due partiti minori, uno di anima populista, l'altro di anima più tradizionalmente conservatrice. Quindi anche lui ha tutto l'interesse a che la partita si risolva nel modo migliore. Però Ryan ha fatto alcune dichiarazioni che secondo me ci danno la misura di dove ci troviamo dal punto di vista politico. Sentiamo. The question now is, can we unify all the various wings of the Republican Party to stitch them together so that we're on the same page, rowing in the boat in the same direction, and that's the kind of conversations we need to begin having. Ecco, avete sentito qui Ryan in un'intervista che ha dato ieri al Wall Street Journal, è stato un po', come dire, il suo ultimo appello verso il compromesso, che c'è un interesse comune. Però in questa intervista ha chiarito che l'unità a tutti i costi non servirà a nulla. E ha fatto in particolare una dichiarazione in questa intervista che è molto forte. Ha detto: è inutile pretendere che il partito sia unito quando non lo è. Dobbiamo lavorare perché l'unità si trovi davvero. Ecco, devo dire, una tensione di questo genere all'interno del Partito Repubblicano non l'avevamo mai vista. E qui ci sono gli elementi che emergono. Da una parte il carattere di Ryan, che conosciamo, un uomo deciso, preparatissimo, l'opposto di Donald Trump, che invece è un improvvisatore, un uomo che punta in futuro a correre per la presidenza e che dunque ha bisogno di avere dietro di sé un partito solido con valori conservatori reali, cioè poco intervento dello Stato, un'attenzione a quello che succede all'estero, poche sovvenzioni, così via, così via. Dall'altra Donald Trump, di cui tutti siamo molto curiosi, non capiamo bene questa sua personalità, se è davvero un piccolo bullo oppure se è un genio, perché in fondo è riuscito a sconfiggere 16 concorrenti e ad emergere come il più forte concorrente in questa corsa politica, io credo anche più forte dal punto di vista proprio della forza politica di Hillary Clinton. E dunque, per cercare di capire qual è la personalità di Donald Trump, ho con me ai microfoni America 24 un ospite che lo ha conosciuto, un italiano che vive a New York e che si chiama Massimo Ferragamo. Buongiorno Massimo. Buongiorno Mario. Eccoci, beh, allora Massimo, io ci conosciamo da molti anni, Massimo si occupa qui della Ferragamo North America e Massimo, se non sbaglio, tu a un certo punto, beh, non solo hai conosciuto in varie occasioni Trump, ma hai dovuto anche negoziare con lui, per cui è questo aspetto che mi interessa. Come sarà secondo te domani Trump nel suo negoziato con Ryan? Sarà una partita poker? Come lo hai visto negoziare? Ma è difficile per me poter indovinare cosa farà domani sera. Donald Trump è un personaggio molto particolare, con una personalità fortissima. È uno street smart, come si suol dire, quindi sa benissimo individuare le caratteristiche di chi ha davanti e è un bravissimo negoziatore. Io ebbi con lui un'esperienza 15-20 anni fa, quando avevamo il nostro negozio nella Trump Tower, che a quel tempo Donald Trump aveva soprattutto degli investimenti immobiliari, e mi trovai di fronte a lui per una trattativa molto difficile, diciamo, anche abbastanza duro. Io mi meravigliai anche delle mie qualità di poter tenergli testa, e devo dire che con lui ho sempre avuto un rapporto molto fair. Siamo stati ancora diversi anni nella Trump Tower col nostro negozio prima di spostarci. Diciamo, dietro questo suo aspetto abbastanza burbero, abbastanza duro, in realtà poi una volta che ha deciso le cose le fa ed è molto fair. Ecco, però sappiamo che in America poi i contratti valgono, magari avevi qualche strumento in mano. Quello che mi raccontano, ho visto una persona l'altra sera che mi dice che quello è spietato, se lui può approfittare di una situazione ne approfitta, dunque... Sicuramente non è arrivato dove è arrivato facendo la carità, ecco. Sì, quindi certo. Sicuramente ha delle doti ottime, però appunto, come hai detto te, i contratti valgono in America, lui voleva farmi un po' paura per cercare di ottenere certe cose. E poi alla fine avete trovato l'accordo. Ecco, secondo te l'accordo sarà possibile domani? Cioè Trump è anche capace di fare un passo verso il compromesso? Perché sai, la verità, lui dice di avere 10 miliardi e chi gli ha fatto i conti in tasca dice che ne ha soltanto uno. Dice di aver bisogno di 1,5 miliardi per correre, dunque ha bisogno del partito. Ecco, secondo te, fino a che punto farà marcia indietro rispetto alle dichiarazioni di qualche giorno fa? Ma a parte della parte finanziaria, che è assolutamente importantissima, io credo che abbia bisogno proprio dell'appoggio del partito, o almeno non dello scontro totale. Quindi secondo me dovranno mettersi d'accordo, perché non credo che abbiano scelta. Ecco Massimo, allora l'altra sera ho incontrato una mia amica che scrive per Vanity Fair, che si chiama Mary Brennan, che tra l'altro ha scritto un articolo molti anni fa che adesso è andato viral, che raccontava del divorzio tra lui e Ivana, eccetera eccetera. Bene, mi ha raccontato che lui era talmente infuriato con lei per quello che aveva scritto in questo articolo, che quando l'ha vista una sera è andato dietro di lei facendo finta di passare, si è fermato e le ha rovesciato il bicchiere di vino dentro il vestito, e poi se n'è andato tra lo smarrimento di tutti gli altri che vedevano questa scena. Ecco, è capace di questo ed altro secondo te Donald Trump? Cioè, che uomo è Donald Trump? Non ho letto l'articolo, quindi non so cosa abbia scritto. Qualsiasi cosa che abbia scritto no, forse non è giustificato. Però ecco, sicuramente quello che posso dire io di quando l'ho conosciuto è che uno molto intuitivo, quindi ha degli occhietti velocissimi che capiscono, ecco, perché capisce, però è anche molto impulsivo e una capacità di attenzione e d'ascolto molto breve, quindi è molto decisivo e sul minuto. Certo, Mario, spero che domani all'incontro con Ryan non gli butti il bicchiere in faccia, sennò quest'unità va a farsi benedire. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!